Luciano, posso farti una domanda? Mi piacerebbe che tu facessi una trasmissione una sera, una puntata, su qualcos'altro che la politica. Parliamo di Parenzo, un'idea di estetica, di cosa, ma anche di figlio, non so io. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Adesso siamo in un angolo, hanno fatto prima il governo, poi le commissioni, hanno bloccato il Parlamento, c'è stato un colpo di Stato, questo io lo ribadisco, né un colpetto, non come, e c'è stato un bel colpo di Stato, in quattro si sono riusciti una notte a verificare le cose, e questa è la continuazione dell'agenda Monti. Stop. I sondaggi li faremo anche noi, quindi state molto attenti adesso, molto attenti a fare i dossier sulle famiglie, sui figli, sui ruoli, a pubblicare gli indirizzi di casa, perché faremo altrettanto. Questo non è un consiglio, è proprio una minaccia che vi faccio. E poi contro Letta, il duello di oggi è tra Beppe Grillo ed Enrico Letta. È da 20 anni che fa il nipote di professione, sentite. Letta come lo vedi? Ma Letta per 20 anni ha fatto il nipote di suo zio, come lo devo vedere? Uno che di professione ha fatto il nipote. Sono paradossi, sono equivoci della politica per portare avanti, la solita agenda. La risposta di Letta: in realtà sono nipote da 46 anni, cioè da quando sono nato. Ma in verità, se posso rispondere su questo, devo dire che da 46 anni che faccio il nipote, se proprio devo essere... E poi va all'attacco il giovane Enrico, oh. Io tolgo gli stipendi, lui fatica con la diaria. Da questo punto di vista, devo dire la verità, è paradossale, folle, cari ascoltatori, questa discussione all'interno dei grillini, ma chi la capisce? La diaria, metà, una parte, la restituzione, quelli che non vogliono, Letta. Con un decreto io toglierò lo stipendio ai miei ministri, vedo che lui fatica a non far prendere la diaria intera ai suoi parlamentari che si ribellano contro di lui. Sì, però su una cosa Grillo ha ragione, ha ragione quando dice che questi ancora non hanno ridato i soldi del finanziamento pubblico, mentre loro 42-46 milioni, anzi 42 milioni, è un'altra discussione, però da questi qua fino adesso, dal governo, dal Parlamento, certo, sulla questione del finanziamento pubblico, solo chiacchiere e parole. Cominciassero a fare cose concrete, su. Ma sul punto... Grillo, no, è vero, Grillo sta prendendo una cantonata pazzesca, perché i suoi ragionano come tutti gli altri, i 5 Stelle, esattamente come tutti gli altri. Ma chi? Chi? I grillini sulla battaglia della diaria. Ma chi? Ma che ne sai? Alcuni sono d'accordo, altri no. Ma chi? I loro chi? I grillini non sono tutti uguali, non la pensano tutti allo stesso questi modo, no? Questi che hanno sollevato il tema della diaria come un deputato qualunque della Prima Repubblica, come quelli che loro tanto odiano e per cui hanno chiesto il voto, cioè quegli stessi, per me comunque sono un monolite unico, non è che sono loro sono i grillini, vabbè. I grillini. Senti questo qua, ho capito, senti questo Petraroli, c'è un po' di confusione, le tasse, le babysitter, sentiamo. c'è un po' di confusione. Comunque adesso ne discute, anche perché c'è sempre il solito problema della, delle tasse che si vanno a pagare su, no? Quindi c'è, ripeto, come dicevo prima, c'è gente che ha tre figli, comunque deve pagare la babysitter, tante mamme vengono qui. Beh, ma chi se ne frega? Cioè, se sei, se sei stato mandato in Parlamento come cittadino da Grillo, ti attacchi. Le regole erano quelle, 2005 è a casa, 2005 a casa, quello che spendi rendi conti tutto, punto e basta. No, allora devi vivere come devi vivere come un prete, devi vivere come un francescano, infatti, come vuole Grillo, allora vivi in tre nella stessa stanza e non rompi i coglioni. No. Stai zitto un attimo, c'è tempo. No, no, loro hanno chiesto il c'è voto tempo, per quello. C'è tempo. Sono loro, non c'è tempo, loro hanno chiesto il allora voto. Allora togliete il volume. Berlusconi, ci sono associazioni segrete all'interno della magistratura. E questo spiega anche l'esistenza di queste società che sono associazioni segrete all'interno della magistratura, come per esempio Magistratura Democratica. Dico segreta perché non rende pubblici, non comunica i nomi dei suoi affiliati, che sono fortemente queste associazioni ideologicizzate e politicizzate, e nei loro documenti conosciuti dicono anche che i loro affiliati possono dare le armi che la giustizia pone a loro disposizione. Allora, quando Grasso parla di Ius Soli e dice che ci sono i puerperi in arrivo, le puerperi in arrivo, no? Che invaderanno l'Italia, allora è uno statista. Quando lo dice qualcun altro è un razzista. Sentiamo Grasso, l'altro giorno. Sullo questo che chiamano lo Ius Soli, porrei dei temperamenti a questo diritto. Se, il pericolo è che il nostro paese si possa trasformare in cittadini o cittadine che vengono a partorire in Italia pur di avere una cittadinanza, quindi bisogna stare attenti all'esasperazione di questi. Io penso che invece uno Ius Soli temperato da uno Ius Culture. Siamo qui 800 24 00 24. Ti ho portato il tuo politico preferito, caro Parenzo. Meno male. Chi c'è? Donato, Letta, no, Roberto Fiore, oppure... leader di Forza Nuova. Buonasera. Buonasera. Come sta? Bene. Senta, oggi ha passato. Quali reati ha commesso ultimamente? Ma non commette nessun reato per il momento. Stai zitto. Beh, un attimo. Il manifesto che incita all'odio. Ecco, quello volevo sapere. Sparare alla Chienghe, non ai carabinieri. È vostro questa scritta? No, quella assolutamente non ha nulla a che vedere con noi. Anzi, penso che faccia un po' parte del solito strascico che c'è quando ci iniziano gli attacchi a Forza Nuova. Cioè, ovviamente no. Qualcuno in lo Toscana fa apposta? Noi siamo impegnati nella campagna contro il Forteto, che è tutt'altra Vabbè, cosa. Quello adesso non ci interessa. Chienghe torna in Congo invece è un vostro manifesto a Macerata, giusto? Ma è un manifesto uscito sicuramente dagli ambienti nostri. Non Beh, so ambienti, c'è la sigla vostra. Lo sto difendendo, ambientini carini, lo difendo, quindi non sto scaricando nulla a nessuno. Cioè lei difende quel manifesto? Sì. Chienghe torna in Congo, cioè secondo lei il ministro dell'integrazione, non è un ministro italiano, dovrebbe tornare in Congo? Ma certamente. Ma è come certamente? Perché c'è Fiore? Certamente, perché? Io capisco che lei possa criticare lo Ius Soli, le idee della signora Chienghe, ma perché dovrebbe tornare in Congo? No, perché io innanzitutto non capisco come abbia ottenuto la cittadinanza italiana, sì, visto che il primo atto che lei ha commesso è immigrazione clandestina. Beh, quelle le regole glielo consentiranno di diventare italiana adesso, no? Un'applicazione del genere in America verrebbe immediatamente stracciata. Può darsi, però siamo in Italia e lei è cittadina italiana quanto lei. Però il punto per cui non considera una persona che, per carità, poi sarà persona degnissima, ma qui sto parlando di cittadinanza. Cioè, cittadinanza la considera italiana lei? La considera italiana lei? No, non mi sembra poterla considerare italiana. Oltretutto viene da un ambiente che lei chiaramente ha descritto, sì, con immagine affetto, perché per carità nessuno vuole che la figlia si scagli contro il padre, sì, ma stiamo sì parlando di una famiglia poligama dove ci sono 38 fratelli. Sì, sì. Ora, no, questo lei ha difeso, insomma, ha detto che beh, il modo di vivere è compatibile con la cultura italiana. Ma non vuole portare la poligamia in Italia, la signora Chienghe. Ma non c'entra. Allora, se noi facciamo un discorso di merito, noi non facciamo un discorso di merito. Sì. La cittadinanza è un dato oggettivo. Una persona che viene da un continente differente, nasce in un continente differente, sì, entra per c'è un fatto di immigrazione clandestina, in più viene in un ambiente culturalmente molto differente, non è italiana, non la sto discriminando. sognando. Ma secondo me è congolese. Parenzo. Poi so che si è sposato con l'italiano. Allora, chiariamo subito a questo, non voglio neanche pronunciare il nome. Ma finiscila su, parla con le persone invece di insultare. Io dico la mia senza interloquire con lui. Lo dica Cruciale, esatto. Senza interloquire con lui. Uno, la ministra è italiana, se lo deve ficcare in quella testolina che la ministra è italiana. Primo punto. Sì. È libera di proporre. Primo punto fondamentale, quindi non deve tornare poi, in Poi, secondo, Congo. Vai, veloce. Se ne vada lui a Londra, stia lui a Londra semmai, che va tanto meglio quando sta a Londra il signor Fiore. Poi? Bene quando l'hai pronunciato. Tu, l'ho chiesto, nonostante 20 anni di residenza a Londra, non ero inglese, questa è la differenza. Poi, Parenzo, seconda cosa, dimmi. Se ne stia a Londra che fa più meno danni, è la fuga dei cervelli, chiamiamola. Ottimo, quando è in questo caso, ottima fuga dei cervelli. Vai, evviva. Vai avanti, su. Evviva. Due, anche qualora, ma non lo vuole fare, volesse proporre l'idea di avere più mogli, se ne discute, chi se ne frega, non esiste cultura italiana. Sì, d'accordo, sì. Però devo dire la verità. Adesso sei diventato politicamente corretto no, anche tu. Io dico una cosa, non vuole introdurre la poligamia, però certamente non è che se uno propone ma in Italia se uno il fatto vuole che... avere, se uno vuole cambiare il diritto di famiglia... Siamo qui la Zanzara con Davide Parenzo, ovviamente in collegamento da Roma e con un personaggio molto discusso che però noi ospitiamo perché siamo come Voltaire, caro Parenzo, che ti piaccia o no? Roberto Fiore, leader di Forza Nuova. Allora, però voglio chiedere una cosa a Fiore. Devo dirle, Fiore, che la signora Chienghe è diventata italiana sposandosi. Lei sposerebbe mai una congolese? No, ma io ho già sposato, quindi non potrei risposare. Vabbè, d'accordo, quello d'accordo. Lei nessuno non è poligamo, lei. È un altro discorso. Nessuno può comandare. Ma lei sposerebbe l'amore. Una cittadina congolese di colore? Beh, se fossi innamorato, molto difficile, ma... Perché beh, molto difficile? Molto difficile. Perché è difficile? È difficile che si innamori di una di colore? Non ho capito. Ma perché? Non voglio nemmeno fare il discorso. Sia sincero, non faccia politicamente, corretto. C'è un motivo per cui uno si innamora di un'altra persona, che è una generalmente una consonanza di feeling, di storie, di tradizioni e poi anche un senso del futuro, che è più facile se si è, culturalmente vicino. Poi io ho sposato una spagnola, non ho sposato una del quartiere vicino a casa mia. Vabbè, quello che c'entra. Non sarebbero mai nati negli Stati Uniti. Questo è il ragionamento. Che hai detto? Se tutti ragionassero, e per fortuna non è così, è lo 0,01%, se tutti ragionassero come questo signor cosiddetto Fiore, Flower, andiamo in inglese che è il signor Flower, gli Stati Uniti non sarebbero la grande potenza e il grande paese. Fiore, che ha sentito Grillo che vuole un referendum sullo Ius Soli, lei è d'accordo? Ma certamente, io so perfettamente che Grillo ha posizioni, diciamo, non certe sullo Ius Soli, diciamo che se è stato vicina alle vostre o no? Non è lontano, anche perché nel passato ha espresso delle posizioni contrarie a favore dello Ius Sanguinis. Lo Ius Sanguinis non è un qualche cosa di folle, di razzista, è il principio che ritiene, soprattutto dei paesi che hanno avuto una forte emigrazione, che quelle persone possano rientrare. Ma lei è d'accordo quando propone il referendum? Un eventuale referendum, non si sa di che tipo? Sarebbe assolutamente vincente per lo Ius Sanguinis. Scusi un attimo, perché non vi sentite? Perché non vi sentite con Grillo? Perché non prova a chiamarlo su questo, magari fate una battaglia in comune o no? Ma non c'è, non sa benissimo il tipo, la metodologia di Grillo è molto differente, molto particolare, ma io non penso che sia importante fare delle alleanze in questo senso. Comunque lei su questo fronte, se lei ha letto la cosa di Grillo, lei la pensa esattamente come Grillo sullo Ius? No, noi diciamo delle cose molto ferme, molto certe. Lui fa un ragionamento complesso che sembra portare al fatto che non vuole lo Ius Soli, è un po' differente. Noi siamo più radicali e più chiari, ma non siamo razzisti, questo è il discorso che vuole fare, non apprezzo, che è piuttosto chiuso nelle sue posizioni. Beh, scusi, avete fatto un manifesto in cui avete detto, e lei lo conferma, lo rivendica e dice anche Chienghe torna in Congo. Adesso voglio dire, se uno fa l'accostamento tra Forza Nuova Congo è una nazione nobilissima che in questo momento ha dei problemi molto molto più peggiori dei nostri. Una nazione dove una donna oggi fa il ministro qua in Italia, ma dove ci sono 1100 e sto leggendo stupri, un sì, l'ho letto la sua cosa, sì. Benissimo, 1100 stupri al lei giorno. Sta dicendo ma che se io fossi donna, io farei la crociata lì, farei la Giovanna d'Arco lì. Cioè torni in Congo a battersi contro gli stupri, questo dice lei. Ma non solo, ci sono 1000 battaglie e poi in via subordinata, se lei ma se quella è italiana, è italiana perché ha sposato un italiano. La lotta per quegli africani che stanno in Calabria e prendono 20 euro al giorno. Ma la farà magari, cioè, magari la farà, cioè, io non ho capito niente di questo. Qui siamo sempre sul politically correct, sullo stile salottiero. Allora, se una persona vuole degnamente rappresentare una nazione, quella congolese, perché secondo me quella sua è quella, facesse questa battaglia, io le sto accanto il giorno dopo. Cioè, lei rappresenta il Congo, secondo lei? Secondo me sì. Rappresenta il Congo. Ha sposato un italiano, un dato di fatto, questo assolutamente, ma secondo me questo ma non è un segno di disistima, è un fatto oggettivo. È un fatto oggettivo perché Parenzo sa perfettamente, sì. Parenzo è un ma estimatore, per come lei è un fatto oggettivo. Grande estimatore di Israele, andasse a vedere come è sostenuto lo Ius Sanguinis in Israele. Cioè? Parenzo non risponde, è per lo Ius Sanguinis in Israele, totalmente. Perché ma tu? Non c'è, ma no, intanto sta dicendo una fregnaccia di dimensioni. Parenzo sta cincischiando perché sa che è la verità. Sta dicendo una fregnaccia di no, ma io però voglio capire se erano possibili convergenze su Grillo, su questa, con Grillo, con questa storia qua, sì o no? Beh, Fiore. Sono possibili convergenze con tutti coloro vabbè, che lo particolare, certo modo, in particolare Grillo, con carità, Grillo. È l'unico che dice esplicitamente, massacrato da tutti, dice che lo Ius Soli, insomma, bisogna parlarne, bisogna discutere, e sarebbe come cambiare la geografia del paese. È un po' quello che dice lei, diciamo la verità. Certo, cioè, con altre parole, meno estremiste, magari, meno nette, eccetera. Meno radicali, cambierebbe la geografia del paese, dunque bisogna sottoporre questa questione all'italiana. Lei mi sembra che sia d'accordo su questo. Certo. Più o meno. E perché non vi sentite? Io non ho capito. Cioè, vi snobba, vi pensa che poi... insomma, c'è un limite anche a Grillo, O no? Ma guardi, lei sta dicendo una cosa che potrebbe avere anche senso, ma di solito queste cose lui deve innanzitutto convincere i suoi deputati, che non mi sembrano molto convinti. Ah no, infatti. Se ci sarà un referendum, quando si raccolgono le firme le raccolgono tutti, ci saranno dei comitati ad hoc e si farà. Ma io penso, le dico la verità, vista la reazione che c'è stata in questi giorni, non ci sarà referendum perché non si azzarderanno a fare una cosa così folle come lo Ius Soli o l'abrogazione del reato di immigrazione. Se si facesse lo Ius Soli sarebbe una cosa quasi da prendere le armi, secondo lei, Fiore? Ma non da prendere le armi, no, che ma ne una cosa folle sarebbe una rivolta rigettata da tutto il popolo italiano. Ma evidente, lo dice anche Grasso, che per carità non è un radicale. L'ipocrisia su Grasso è stata clamorosa, Parenzo, però. Grasso ha detto una cosa sull'invasione. Che non avrei detto io, perché ha parlato di donne partorienti. Cioè, se lo diceva Fiore, lo massacravano. L'ha detto Grasso, tutti zitti. Sì, certo. Grasso ha detto, a mio avviso, una cosa profondamente sbagliata. Dopodiché, siccome Grasso ha una storia che non può essere tacciata di razzismo, mi fa meno paura di quello che dice Flower. Senta, Fiore, ma il Congo ma Flower, perché non va non sta a Londra? Il ministro civilissima Inghilterra, come la chiamate spesso, sì. Parenzo e compagni, la civilissima Inghilterra ha abolito lo Ius Soli nell'86. Scusi. Perché purtroppo c'era la gente che veniva dagli altri continenti a partorire. Fiore, il Congo, il ministro viene da un paese che è il paese degli stupri, dice lei? Congo è una terra di stupri? È una realtà gravissima, pazzesca, e ci dovremmo, adesso non dico, non voglio far buonista, d'accordo, ma il ministro è tipo di ministro è? Un ministro abominevole, un ministro terrificante? No, guardi, sicuramente le dico, sicuramente una persona di sinistra, ma deve essere sicuramente una brava persona. Io per questo le scrivo alla donna, alla signora, alla congolese, torni in Congo, alla congolese, no, è italiana, ma facesse queste lotte, poi se si trova a rimanere in Italia, che ovviamente rimarrà in Italia perché c'è la famiglia eccetera, facesse le lotte in Calabria, visto che c'è la famiglia calabrese. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Allora ti faccio sentire, caro David, quello che ha detto oggi l'olgettina Barbara Guerra. L'olgettina Barbara Guerra in tribunale. In tribunale, senti. La signora Guerra ha detto che Rubin in 6 mesi. Allora su si è fatta di tutti, ha parlato di quadri di Milano, insomma, conferma questa cosa. Ma guardate, non l'ho scritto, non però signorina Guerra, un'opinione non pubblica. Di quello che... Non ho mai come non l'ha detto? Detto scritto su Twitter di un quadro di Picasso. Il giorno che Ruby è venuta davanti al tribunale di Milano, lei su Twitter scriveva c'è rovinato, è una troia. Scusi, sono parole sue, non voglio. Ragazzi, sono cose che si scrivono, sono state scritte su internet. Che le più volte non lo vedi mai. spegni la luce, passa dalla TV. Dice di non aver mai detto una cosa che anche a noi in realtà ha confermato, cioè che la signora Ruby ha appeso più schizzi del quadro di Picasso. E chissà a cosa si riferiva? Ricordo la citazione, me la ricordo. Ha appeso più schizzi lei che il quadro di Picasso? E poi all'altro, una botta nel braccio, e poi all'altro, prendila, schiacciala, schiacciala, via. Allora, c'è questo grillino... Cioè, lei non è un'esperta di pittori cubisti, credo, no? No. Si riferiva ad un'altra cosa, ad altri schizzi. Ma c'è questo grillino ribelle, questo Venturino. Ieri ribelle. Ieri era a servizio pubblico. Pubblico. Sì, ribelle. Questo Venturino, ribelle, vicepresidente dell'Assemblea Regionale Siciliana. Guarda, che dice, abbiamo lasciato a Berlusconi il governo del paese. Questo è il rimprovero che fa Grillo. Secondo i grillini non paga, non restituisce... e i rimborsi eccetera eccetera da febbraio. Chiedo agli altri come si fa ad essere un partito che vince di fatto le elezioni l'espresso. E a lasciare Berlusconi governare. Noi tutta la campagna elettorale l'abbiamo fatta dicendo di spazzar via questa classe politica, oggi ce la troviamo ancora più forte di prima e questo credo lo si debba soltanto ai nostri errori politici, non nessuno. L'unica cosa che mi ha detto Grillo è che sono un pezzo di merda. Io ho provato a farlo, ho parlato col mio gruppo e loro lo sanno, lo possono testimoniare. Ho provato a chiedere anche un incontro con Grillo. Lei non ci crederà, ma pezzo di merda è l'unica cosa che io mi sono sentito dire da Grillo da quando sono stato eletto. Non ho mai avuto il piacere di confrontarmi con lui in nessunissima situazione per parlare praticamente di nulla. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Grillo attacca Letta e torna a parlare di colpo di Stato, poi minaccia la stampa e i dissidenti interni ed avverte no allo Ius Soli, serve un referendum. Letta replica inaccettabile parlare di colpe, poi io taglio gli stipendi dei ministri, lui nemmeno la diaria dei suoi parlamentari. Vendola contro Grillo sullo Ius Soli parla come la Russa, critiche anche dal movimento di Battista, noi favorevoli, lui non è parlamentare. Domani l'assemblea del PD sulla successione a Bersani, continuano gli incontri, si profila un accordo sulla reggenza affidata a Guglielmo Epifani. Dal vertice Letta, maggioranza, l'agenda dei prossimi 100 giorni, riforme per casa, fisco, lavoro, mercoledì prossimo il decreto su IMO e cassa integrazione. La tragedia di Genova, l'armatore accusa i due rimorchiatori, non sono stati in grado di tenere la nave. Al TG3 la moglie di un sopravvissuto, vogliamo risposte. Ieri aveva presentato denuncia per minacce, oggi a Vicenza due incappucciati hanno bussato alla sua porta e l'hanno ustionata con l'acido. Tratta in salvo una donna sopravvissuta per più di 2 settimane sotto le macerie del Rana Plaza di Dhaka in Bangladesh, crollato il 24 aprile. Devo dire la verità, caro Parenzo, un grande coup de théâtre, una grande pièce teatrale si è svolta ieri, se non sbaglio, durante il programma Quinta Colonna. Berlusconi sì. Nei panni di Achille Lauro, Berlusconi nei panni del grande benefattore, no? Bravo, qualcuno bravo, ha visto questa roba come l'ennesima prova che Berlusconi vuole comprare i voti, altri l'hanno vista come una splendida rappresentazione teatrale. Parla per prima la signora Ida, senti. Lei ora di cosa ha bisogno, signora? Io attualmente ho bisogno di un lavoro, ho bisogno di un aiuto economico perché devo sostenere anche delle spese private per mio marito che purtroppo non va può bene. Lavorare. Ho allora senta signora, ascolti, siccome noi siamo abbastanza efficaci in questo, io dico Aprilia e dintorni, il quotidiano @mediaset.it. A questo punto si inserisce Berlusconi. E se posso scrivere anch'io al signor Paolo Del Debbio, sarò lieto di donare a questa signora un importo che potrà consentirle di non avere problemi per qualche mese. La ringrazio molto. Grazie, la ringrazio Presidente. Signora Ida, ci sentiamo allora poi. A un certo punto arriva anche Mimmo. Facevo il custode guardiano, un vigilante, diciamo. Poi perché è stato licenziato? È fallita l'azienda? Il condominio ha chiuso, sì, diciamo, i battenti, quindi automaticamente sono rimasto senza lavoro. È vero che ora si fa, vive con 150 euro settimanali? Sì. E le guadagna in nero, vero? In nero, e non sono totali 150, in quanto devo comunque fare 40 km andare e 40 km andare. Ovviamente non poteva mancare, no? Cioè, non poteva non cogliere l'occasione. E dunque, stupendo, di nuovo si insinua Berlusconi. Tutto a sorpresa o tutto concordato? Io segnalerò la loro posizione. D'accordo. Al presidente della regione Campania e al nostro coordinatore regionale. Oltre a questo, se lei me lo consente, data la coincidenza della mia presenza qui e della loro presenza in studio, io mi permetterò di inviare un supporto concreto che li toglierà dalle angosce per alcuni mesi. A voi i commenti, caro Parenzo, a voi i commenti. 800 24 00 24. Diciamo che, come lei acutamente, direttorissimo, ha fatto notare, un legittimo, piccolo, insignificante, minimale sospetto. Esatto. Che No, che qualcosa, però dopodiché rimane la questione, anche se era concordata e non lo so, ma un sospetto legittimo rimane, sì, rimane la questione di fondo, cioè Berlusconi davvero pensa di risolvere le cose con le... Quella è elemosina, si chiama elemosina quella roba lì, non politiche strutturali di crescita di cui anche questa trasmissione si dovrebbe occupare. Sì, sì. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi, cioè, guarda, vedi? Eccola qua. Roberto da Brescia, buonasera Roberto. Che fine ha fatto, signor Fiore? Buonasera Costani, buonasera Parenzo. Auguri a Massimo che compie gli anni oggi. Auguri a Massimo. Ma possiamo ridere o piangere? Massimo chi, scusi? Massimo è il mio amico. Ma chi se ne frega, Roberto, amico, è Radio Bubù che sta qua. Ma ti sta contando, frega a me, dai. Ma che me ne frega a me di Massimo, il suo amico, a fargli auguri via Radio 24, ma lei è impazzito. Ma cos'è, Radio Dedica? Le ha dato, le ha dato rivolta al cervello. Vuole anche dedicargli una canzone? Di buonismo, dai. Abbiamo appena, ma buonismo cosa? Ti stai cantando tutti. Ma dobbiamo piangere o dobbiamo ridere? Ma non lo so, ma non me ne frega niente. Ma scusi, le reti per dormire e i letti in rete. Vabbè, cosa diavolo vuole da noi, Roberto? Ha chiamato per cosa? Vuole dedicare pure una canzone, dice Parenzo. Che cosa vuole da noi? Ma vorrei dare in dotazione un sacco a pelo ai grillini. Ah, certo. Le razioni K, lei le conosce? Le razioni K, vuole dare ai grillini una rete e delle razioni K. Sono d'accordo, Roberto, penso che accetteranno, perché a Roma con 2.500 euro si trova in una situazione molto complicata. Grazie, Mario da Livorno, buonasera. Buonasera. Vada. Sì. Volevo spendere qualche parola di buono per il governo. Tutti che li trattano male, anche per voi che state lì. Sì. Allora, per quanto riguarda il governo... Scusi un attimo, Mario, noi non abbiamo detto niente di male nei confronti del governo. Facessero qualcosa. A me non mi piace. Ma che cosa non le piace? Contro di voi. Ah, che voi non state facendo niente di male contro di loro. State facendo solo il vostro lavoro. Ma non si preoccupi, non c'è bisogno di difenderci. Ci difendiamo bene da soli, non si preoccupi. Tutti che piangono senza lavoro, che stanno qua, che stanno male, che si rimboccassero le maniche e che andassero a lavorare, che io non so più dove sbattere la testa per il lavoro. Va bene, Mario. Di quel lavoro che mi... Comunque, volevo dire per il governo. Sta recitando. Sì. Sta recitando un bel copione dettato dal Napolitano. Loro devono fare la loro parte. La loro parte è questa qui. Devono recitare e portarci avanti il rigore. Punto e basta. Perché sulle autostrade le cose sono diverse. La gente non lo sa, la gente. Sì. E invece lei che sa? Io so che sulle autostrade stanno camminando molti mezzi militari nuovi. Stanno molti facendo sorte di armi, sorte di carburante. Ma di che sta parlando? Le sto parlando io, perché io questo faccio. Ma lei vedrà, lei sarà camionista e vedrà in giro qualche convoglio militare. Ma che ne sa lei? E poi che cosa c'entra, scusi? C'entra, perché tutto questo rigore serve per questo, per gli armamenti bellici. Ma quando per un mai? Appoggio logistico per l'America, per avere il benedetto petrolio. Ma lei ha delirio. Purtroppo no, sono in delirio. Legge troppe cose dietrologiche, legge troppa letteratura di complotti. kiosca e laica e suona con maestria l'arpa. Ceausescu! Ceausescu! Decideranno la diaria, chi la vuole restituire la restituirà, chi non la vuole restituire prenderà le sue responsabilità, perché questo è una cosa che noi abbiamo deciso, abbiamo firmato dei documenti, e allora uno con 3.000 euro può viverci, se tu le spese le rendi conti tutte ci può stare benissimo dentro tutte. Questa è una condizione che non può essere mutuata così, è una condizione di un contratto di comportamento che hanno firmato tutti, e io sono abituato che se firmo una cosa e mi impegno di una cosa la porto a termine. Allora, i dissidenti da una parte, quelli della diaria che si tengono la diaria di là, le spie di qua, quelli già venduti al PD di qua. Ragazzi, venite. Tra la steppa del Mar Nero c'è il vivaio di Taras Bulba, c'è la statua del cavallo di Zabov. C'è l'impronta della la Bindi non si è accorta che è in coalizione con Berlusconi, che il vicepresidente del Consiglio è Alfano, che il presidente della Commissione di Giustizia è Nitto Palma, eccetera, eccetera, eccetera. Dice rischiamo. Anzi no, dice Berlusconi invece di andare in piazza si ritiri. Ma come, hai fatto appena il governo con Berlusconi, le cose le ha trattate con Berlusconi, Letta, chi vuoi che abbia deciso, cara Bindi, ministri del partito di Berlusconi, se non Berlusconi stesso? Io credo che un uomo politico che ha la situazione giudiziaria di Silvio Berlusconi, anziché fare le manifestazioni, dovrebbe trarre le conseguenze, perché credo che questo sarebbe il modo corretto con il quale poi si consente anche un percorso possibile nella vita di questo paese. Per esempio, ritirarsi dalla vita politica. Ma non c'è dubbio, sarebbe il gesto con il quale questo sarebbe, un politico sarebbe compie, già stato fatto in Francia, compie in Germania, quello che dovrebbe compiere. Kiosca laica e suona con maestria l'arpa. Vabbè, la stessa cosa che diceva in realtà Mineo ieri sera, o l'altra sera qui alla Zanzara. 800 24 00 24. Mauro da Mantova, buonasera Mauro. Ciao. Dica. È proprio vero che andare con lo zoppo si impara a zoppicare, cioè? Che sale a stare con Parenzo mi sa che è diventato solo zoccherai come lui. Ma che vuol dire? Si spieghi? Ah, questo è il solito. Ma stai zitto tu che c'è una merdaccia. Parli più forte che non sentiamo, su. È il solito alcolizzato. No, tu sei un cretino e bravo di merda, primo. No. Hai capito? Hai capito? Se ne cerca lui. Mauro, che c'è? Hai capito cosa ha detto? Lui. Allora Mauro, allora, questo povero imbecille, lui non può sempre dare, insultare la gente. Prima o poi quello si porta a casa la cinquina sul muso, che se la ricorda per un bel pezzo. Ma chi ha la cinquina? Venga, che l'aspetto, venga. L'ottavo nano, sì, che ha a fianco Cruciani, deve augurarsi di non incontrare mai me, perché io so che faccia di stronzo a lui, ma lui non sa che faccia io. Mauro, guarda, l'aspetto a braccia aperte, dico mio. Io l'onore e mezzo sono a Milano. Io l'onore e mezzo vengo a Milano, ci vengo a spaccare la faccia. No, questo Mauro, mettere... Mauro. No, perché molto bene. Lui pensa che io scherzi. L'ultima volta che ho litigato con un uomo di colore, mi ha portato via il legno che avevo in macchina, il 113. L'anno scorso in settembre, perché sì, io prima discuto, poi il legno, ha capito? Tu hai capito perché poi questi qua, io non capisco perché li rilasciano a un certo punto. Tu non sei nulla, tu sei lo zero assoluto. Tu io sei non ho capito perché lo rilasciano assoluto. Uno così. Ascolta. Ma lo rilasciano da dove? Con la chimica, lo rilasciano, cioè che con la chimica uno con delle pastiglie lo regola l'umore, poverino, ma io non capisco perché lo lasciano andare in giro. Tu intanto non dovresti essere lì, perché tu siccome lei intanto non si deve rivolgere così a me per... Ascolta, tu sei un mongoloide. Lei intanto, oltre a essere un povero disadattato, e i mongoli non mi risulta che di religione siano ebraici, al massimo. Benissimo. Allora lei, grazie allora, a questo, mi sta rendendo mongolo, una persona felice. Come fai a essere mongolo? Ho già dato mandato all'avvocato di farle sequestrare la casa. Le verrà pignorata la casa per gli insulti. Tu dovresti essere al manicomio criminale, dovresti essere. Le verrà pignorata la casa per gli insulti che mi ha fatto. Oppure dovresti essere a Dachau. Io la inviterò a cena con i soldi che le prendo per le sue ingiurie. Io la inviterò a cena. Coglione! coglione, coglione, te l'ho già detto. Io non posseggo nulla, che cosa mi porti via che non ho nulla di mio? Coglione! Cosa mi porti via? Poverino, è talmente sopra le righe che evidentemente... tu non sei realista! Tu non sei realista! Evidentemente c'è un problema nel Servizio Sanitario Nazionale di Mantova, perché un demente simile... Prima le cose del Olimpico! Ma non deve neanche circolare uno così! Mauro, io non capisco, però Marco Perete, lei fermo. È un poveretto malato, ma grave anche. Fermi tutti, non capisco che cosa ha fatto però Parenzo, Mauro, lei lo sta attaccando come un matto, ma cosa ha fatto di concreto? Esiste gente come lui, esseri viventi come lui, che non posso dire esseri umani, esseri viventi storici. Vabbè, ho capito, ma dovrebbero vivere. Vabbè, ho capito, ma perché lui non può sempre prevaricare la sua idea agli altri. Non sono tutti di sinistra e coglione come lui. Vabbè, sono anche per farla arrabbiare, sono veramente felice perché anche stasera ci sono riuscito. Io godo, mi mando a letto contento oggi, sono troppo felice. Guarda, coglione! Più lei si arrabbia, più io sono felice. Io un giorno sono felice. Spero più tardi possibile. Che bello, ancora! Ma prima la cinquina! Ti do la cinquina e ti lascio la malata tipo sacra cingole. Bravo! Coglione! Di più. Va bene, ciao Mauro, resti lì, Mauro, resti lì, Alessandro da Treviso. Ancora? Alessandro da Treviso. Mamma mia, mi ha reso felice. Alessandro, dica. Ah, niente, io ho telefonato per dare non insulto il signor Parenzo, che anzi trovo una persona raffinatissima. Vabbè, allora? Raffinatissima, sì. Poi? Sì, grazie. Volevo semplicemente dire che per fortuna c'è Grillo. So che questo non piace a Parenzo, non me ne frega niente se lo pagano o non pagano le diarie o meno. Per fortuna c'è Grillo che salva la democrazia. Perché un regime democratico. Addirittura. Un governo, sì signore. Intanto Rodotà, Sky TG24 ha appena detto che la cittadinanza degli immigrati nati in Italia è un atto dovuto. Il candidato Grillino alla presidenza della Repubblica. Allora, vabbè, Alessandro, dunque. Io non sto parlando assolutamente di chi ha diritto alla nazionalità, chi no. Ma io, infatti, lo dicevo non a lei, lo dicevo a tutti. Alessandro, allora andiamo alla conclusione. Cosa vuole? La conclusione è che volevo dire: per fortuna c'è Grillo, perché è minata la grande DC, che si è ricostruita assieme al Partito Comunista. Sì. E sono fusi e hanno costruito delle finte opposizioni, tipo i Fratelli d'Italia da una parte, tipo il Sel che era assieme a loro. Meno male che Grillo c'è. Grazie. Daniele da Milano. Daniele da Milano. Buonasera, Daniele. Ciao Paro, sono di l'ATM, come va? Bene? Grande, ATM di Milano, dica Daniele. Ascolta, no, avevo chiamato per fare, però vabbè, alcuna gente va internata perché comunque certe cose non vanno. Abbiamo superato il limite. Vabbè, allora... Però volevo dirvi solo una cosa, una proposta. Si può evitare di far votare chi ha sopra i 60 anni? E perché? Ma perché io penso che comunque al giorno d'oggi internet, la televisione fa tanto e secondo me la televisione condiziona molto l'italiano medio, quello dai 60 anni in poi. E allora? E Berlusconi ha questo potere mediatico di fare il lavaggio del cervello a tutte queste persone che guardano. Vabbè, ma lei è malato di mente, su, lei è malato, no, dai. Ma lei è malato, perché? Dai, su, perché lei è malato. Non vuole fare votare quelli che hanno sopra i 60 anni perché dice queste stupidaggini sulla televisione. Dai, su, ma si faccia una bella cura. Dai, su. No, ma dai, bravo. Dai. Scusa, ma secondo te una persona con una logica dove vede una persona che ha preso 4 anni di galera può dargli ancora il voto? A chi? Berlusconi, ma non lo voti, ma se vuole non lo voti, non c'è bisogno di dire queste stupidaggini però, se vuole non lo voti, punto e basta. Vabbè, ok, ti saluto, ciao. Allora, il delirio di alcuni deputati a 5 Stelle, Sara Paglini, senatrice 5 Stelle, spero Parenzo di non aver contribuito alla sua elezione, Sara Paglini. No, sì, tu eri in Lombardia. Non lo so se questa è stata eletta in Lombardia, spero di no perché mi voglio ammazzare, se no mi ammazzo, mi butto. Indirettamente, come tu avessi mandato tutto quel gruppo dirigente. No, non me lo dire, non me lo dire, ti prego, non me lo dire. Beh, è chiaro, anche non me lo dire perché coppetta. Anche quella della coppetta mestruale ho mandato in Parlamento, ma dici. Ma tu, anche se hai votato in Lombardia, è evidente che tu ho mandato in Parlamento anche quello dei chip sotto pelle, dici? Ah, tutti tutti quelli. No, questo non c'è dubbio. Aspetta, senti che dice questa, senti che dice questa. Noi siamo il ragazzo con la busta della spesa davanti al carro armato in piazza Tiananmen. Vabbè. Ma tu ti rendi conto o no? Tu ti rendi conto o no che ho contribuito a portare in Parlamento? Ti rendi conto o no? Ti rendi conto? Prima non c'è nessun sacco della spesa, non c'era nessun sacco della spesa davanti al carro di Tiananmen. Primo. Secondo, più importante, non siamo in Cina e non siamo a piazza Tiananmen. Ma questa no, forse la busta della spesa c'era, Ma devi prendere con te stesso. Comunque però, il PD riparte dal nuovo, tanto per cambiare. Dai, riparte dalla CGL soprattutto, non si stacca. Dai, mai però era socialista questo legame. Sì, è l'unico socialista, come scrive Rondolino, che poi si è messo con gli ex comunisti, una cosa pazzesca. Vabbè, siamo qui 800 24 00 24 con Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Buonasera direttore, come sta? Buonasera, tutto bene. Parenzo, che c'è? Non devi dire niente al direttore? No, volevo sapere il titolo sobrio di domani del giornale. Io devo dire, sinceramente... Un craziano alla guida del PD. lo sai Alessandro che Parenzo ogni tanto fa la... Ogni tanto Parenzo fa la parodia dei titoli del giornale. Avanti, ma perché io voglio bene a Sallusti. Avanti, fai la parodia. Adesso... Com'è il titolo di domani del giornale, direttore? Apertura di domani, Epifani, segretario, CGL di merda e l'occhiello. Abbiamo messo così un commentino. Perché CGL di merda? Perché scusa. Perché pensano soltanto a persone garantite, tutelate, fanno spendere soldi pubblici. Un piccolo occhiello, una notizia, un fatto. CGL di merda. Ma è un piccolo occhiello, ma non abbiamo detto nulla di male. No, io devo dire, devo confessare questo. Ultimamente, quando sono depresso, e mi capita spesso, e Cruciani lo sa, per tirarmi su non guardo più i comizi di Borghezio, ma guardo lo scontro meraviglioso a Ballarò tra il direttore e D'Alema sulla Vabbè, casa. Quella è roba vecchia, però. Quella è roba vecchia. No, ma per me quello mi rimette di ottimo umore. Vabbè, io ho mandato invece in onda l'altro giorno una cosa che penso che ti abbia sollevato il morale, caro Parenzo, che è la cosa meravigliosa che ha detto su Preiti. Io l'ho anche difesa in tutte le salse, tu invece mi hai attaccato, sei terribile. Un cinico, eccetera. Una cosa terribile, ma no, perché terribile. Cinico? È che è stato fortunato in altri paesi, in un altro paese, in particolare l'America, sarebbe stato crivellato io di colpi. Io ho detto meno male che il direttore Sallusti non fa il questore, ma il direttore di giornale. Ma qual è il problema? Non capisco tutta questa politico di correct per forza su Preiti. In un altro paese gli avrebbero sparato, punto e basso, oppure era meglio che si sparava lui direttamente alla tempia. Ma di che stiamo parlando? Vabbè, comunque, scusi Sallusti, ma domani come si fa però? I ministri non scendono in piazza, pare, domani la manifestazione del PDL, no? Ma no, mi risulta di sì che scende. Sì, alla fine ah, sì. No, i ministri no, sono rimasto indietro. I ministri non lo so, no, non lo so. Mi sembra di no. Comunque sbaglierebbero. A non scendere in piazza, dice lei? Beh, immagino di sì, non vedo cosa c'è da vergognarsi o di inopportuno a scendere in piazza. No, ma appunto sembra una furbata come quella che fecero, ti ricordi, durante il governo Prodi, quando c'erano le manifestazioni contro non so che cose, i ministri non scendevano in piazza. Insomma, se il PDL fa una manifestazione, ci può andare anche un ministro tranquillamente. Ma no? Contro chi? Contro se stessi la fanno. No, contro la magistratura. Ma no, la fanno contro se stessi perché sono al governo. Ma che c'entra? La magistratura mica il governo, ma che dici? No, capito? Ma loro no, è il governo, il governo. In che senso il governo, Sallusti, scusi? No, è il governo nel senso che governa più della magistratura del governo legittimo. Lei dice, A quello che si vede pare di sì. Cioè, che c'è? Il governo mi risulta Letta Alfano, non è mica Letta qualcun altro, o no? No, il governo, quello formale è Letta Alfano, quello sostanziale mi sembra Boccassini Woodcock. Ah, Boccassini Woodcock, lei dice. Cioè tra Napoli e Milano. Ma scusi un attimo, ma il nemico numero uno all'interno della magistratura di Berlusconi, secondo lei chi è? C'è proprio il magistrato più cattivo? Cioè, perché poi non si è mai capito esattamente, ma quello proprio più pervicace, quello più accanito, chi è? Ma insomma i nomi sono quelli lì, Boccassini, Vutko, direi che non c'è un nome, c'è una combricola. Una combricola, cioè secondo lei si sentono anche per telefono, si mettono d'accordo? Ma io immagino di sì, sono degli uomini come tutti gli uomini, telefonano, pensano, parlano, cioè, complottano. Cioè secondo lei a un certo punto dicono, vabbè, cerchiamo di organizzare qualcosa in un momento politico particolare per far saltare qualche Ma non solo lo dicono, lo scrivono anche, perché sul blog della magistratura, che è un blog riservato, bisogna avere una password per accederci, sì. E dove scrivono solo magistrati, questi discorsi si leggono... Io pubblicai anche uno stralcio di un intervento di un magistrato, credo trentino, che diceva: cari colleghi, dopo Berlusconi bisogna occuparsi anche del berlusconiano. Sì. Ma quello era semplicemente quello a cui fa riferimento Saluzzi, se non sbaglio. Sì. È come quando pubblicarono il clamoroso scoop: ecco cosa pensano i magistrati. Ed era un convegno di Magistratura Democratica, che è una corrente. Senta, che è ma, una corrente, sì, ma, se ma non devono esistere le correnti in magistratura. Lei... è l'unico paese del mondo dove esistono. Il fatto che esiste una corrente vuol dire che esiste una linea politica della magistratura. Ma esiste anche Unicost, ad esempio, che è l'altra ma corrente. Sì, ma è altrettanto inquietante. Non è che questo mi solleva. Scusi, Saluzzi, ma secondo lei alcuni magistrati vorrebbero Berlusconi morto? Cioè, ad alcuni magistrati farebbe piacere che Berlusconi morisse, cioè che crepasse in qualche modo, magari di crepacuore per le indagini? Non lo escluderei, perché guardi che la magistratura, come tutti i magistrati, come tutte le categorie umane, sì, al suo interno anche dei pazzi, degli scontariati, degli instabili, dei psicopatici. Sì. Io credo che ormai più che una questione politica sia diventata una questione personale in alcuni casi, sì, proprio una cosa che non ha più nulla a che fare con le regole, sì, con la ragione. Sì. No, di questo sono convinto anch'io. Cioè, secondo lei alcuni magistrati che accusano Berlusconi sono proprio degli squinternati, dei pazzi, cioè delle persone poco equilibrate. Sì, sì, sì, ma questo dei malati di mente. Che si può dire, cioè, in Italia esistono tre poteri costituzionali: il legislativo, sì, l'esecutivo e il giudiziario. Dei primi due si può dire che sono che all'interno hanno dei pazzi, degli squilibrati, dei cialtroni. Del terzo no, e qualcuno deve spiegarmi perché. La categoria dei magistrati è una categoria umana. Ma il primo dei pazzi, secondo lei, che è il primo degli squilibrati, chi è? Tra quelli che lei conosce che accusano Berlusconi, ci sarà qualcuno? Ma non so. I nomi sono quelli che ho fatto. Cioè, la Boccassini, insomma, come le appare? Ma insomma, il magistrato che ha condannato me a un anno e tre mesi di carcere non mi sembra uno molto equilibrato. No. Vabbè, quello no, là però non ma ha... Ma tanto è vero, gliel'ha detto anche Napolitano, non è che lo dico io perché è vittima. Insomma, e la Boccassini come le sembra? Mi sembra, per esempio, sul processo Ruby, mi sembra assolutamente squilibrata. Cioè, una cosa che è ridicola se non fosse tra. E Forno? Beh, anche lui ne ha fatte di sentenze. Addirittura una volta mandò in carcere il padre di una bambina morta per tumore, accusandolo di sevizie. Insomma, sono cose che la gente poi dimentica, ma questo magistrato è ancora in servizio. Ma l'altro qual è? Quello del caso per cui è stato condannato Berlusconi? Chi è il PM? Chi è? De Pasquale? Chi è? Quello di... No, quello... Cioè, De Pasquale, insomma lo stesso... c'è un collega, non facciamo i nomi, Brachino, che è andato nei guai con l'ordine dei giornalisti perché in onda un filmato dove si faceva vedere un magistrato con i calzini, ma perché si va sotto processo se si va a vedere un magistrato con i calzini azzurri e invece non si va sotto processo giustamente se si fa vedere la Finocchiavo al supermercato che fa la spesa con la scorta? Vabbè, quelle sono delle foto perché nei confronti dei magistrati c'è una libertà inferiore di critica, di sberleffo, di vabbè, quelli hanno messo sotto accusa la scelta di fare un servizio giornalista, secondo me sbagliando, perché non deve essere accusa. Io posso prendere in giro un magistrato, perché Crozza non può prendere in giro un magistrato? Perché? Vabbè, no, magari lo fa, Ingroia l'ha preso in giro. No, non l'ha mai fatto quando non era più magistrato. Perché magari appaiono di meno, diciamo, a parte Ingroia, appaiono un po' insomma, di... mica tanto, io un bel Crozza che fa Vutco, che fa la Boccassini, io me lo guarderei volentieri, ma non lo farà mai, perché è lesa maestà, non lo so. Vabbè, è anche più difficile, no, rappresentare la Boccassini, qualcuno magari ci ha provato nel passato. Lei come la farebbe la Boccassini? Rappresentano la Sant'Anchè, non rappresentano la Cortellesi, non potrebbe imitare la Boccassini, sembrerebbe... divertente. Ma la Sant'Anchè alla fine la fanno vicepresidente della Camera, secondo lei? Signor Saluzzi, lei che sa le cose di famiglia? Pronto? È finito? Ok, che è successo? È caduto? Vabbè, tanto pubblicità, poi torniamo. È 800 24 00 24, tra poco arriviamo. Lei è un cretino, Cruciani, lei è un cretino, lei pensa di fare lo show business, di far ridere, lei fa piangere. Se si è perseguitato prende il suo elicottero, vada ad Antigua, sta là, si porta le cose che vuole, si diverte là e stia là, ma basta, vuol fare il senatore a vita, facciamoli fare il senatore a vita, ma poi deve portare via i coglioni da questo paese qua, abbiamo bisogno di andare avanti. Poi parla ancora di colpo di Stato. Io e la rabbia. rabbia, innervoso, il fastidio. Cioè non è solo in un angolo, adesso siamo in un angolo, hanno fatto prima il governo, poi le commissioni, hanno bloccato il Parlamento, c'è stato un colpo di Stato, questo io lo ribadisco, né un colpetto, non come, e c'è stato un bel colpo di Stato, in quattro si sono riuniti una notte a verificare le cose, e questa è la continuazione dell'agenda Monti. Stop. Guardate sua maestà. E vabbè, questo è il grillo di oggi con il golp. Ma Parenzo, si dice golp o golpe alla fine? Io non capisco. Golpe. Ma quello che io non capisco è Grillo, che adesso si chiama dossier perché hanno pubblicato qualche. Ma non è lui quello della trasparenza, scusa, che si deve sapere tutto dei suoi deputati, delle sue cose. E poi non era lui quello che in campagna elettorale aveva chiesto i voti dicendo che i suoi deputati avrebbero guadagnato 2.500 euro al mese. Poi ha detto, quando è venuta fuori la polemica perché alcuni dei suoi hanno tirato fuori questo argomento, no, non si può vivere con 2.500 euro a Roma, e lo scoprono adesso. All'inizio ha detto no, è una campagna di stampa contro di me. Ma di che cazzo sta parlando, detto con rispetto questo signor Grillo? Ma di che parla? Siamo in collegamento con Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Ieri Grillo, dimmi Alessandro, che c'è? Che succede? No, che sei d'accordo con Parenzo è una cosa che fa paura, ma purtroppo sono d'accordo con Parenzo. No, voglio dire, Grillo ieri ha detto che Berlusconi sarebbe in galera, però, come in un qualsiasi altro paese democratico. La galera per Berlusconi. Beh, è stato condannato in via definitiva, quindi no, dice una cazzata. Sì, sì, sei d'accordo ancora una volta con Parenzo, Sallusti? Purtroppo sì, a me sembra che più che un colpo di Stato, Grillo sia vittima di un colpo di sole permanente. Ormai è una macchietta, è una macchietta di se stesso, sto mollando. Anche oggi un deputato, un senatore, non ricordo, l'ho mandato a qualcuno e si diceva, ma cosa vuoi tu che non neanche... Sì, di Battista, quello romano che ha detto... Fabbrico i dossier, ma a parte che non fa paura a nessuno, può fabbricare tutti i dossier che vuole, ma mi sembra veramente in preda a un delirio permanente. Penso perché la situazione gli sta sfuggendo di mano. Dici? Immagino di sì. Sta succedendo dentro i gruppi parlamentari del movimento, mi sembra chiaro. E quindi alza il tiro, ma ormai è veramente una comica permanente. Senta Sallusti, ma lei voterebbe mai per Renzi se si presentasse alle elezioni? Ma il voto è sempre un'alternativa tra qualcosa. Renzi entrerebbe in una rosa che prenderei in considerazione. Cioè non esclude l'idea di votare per Renzi, mentre che si dipende da in quel momento che cosa si potrebbe votare in alternativa, però non avevo... Aspetti che non la sento più, ricolleghiamoci. Che diceva lei? Che diceva su Renzi? Sì. Che non avrei problemi a votare Renzi, dipende da cosa c'è in alternativa, se c'è di meglio voterei diversamente. Certo, non c'è dubbio. Su Renzi no, dipende con chi sia lei, eccetera. Ma tra Renzi e Berlusconi, sempre Berlusconi comunque. Tra Renzi e Berlusconi in questo momento mi offre più garanzie Berlusconi, e anche i risultati elettorali lo dicono. Se non ci fosse più Berlusconi nella rosa attuale, Renzi lo prenderà in considerazione. Sarebbe il primo della lista? Ma nel parco attuale credo sarebbe, se non il primo, sarebbe in alto sicuramente. Senta, perché Dario Fo, cioè, secondo lei, c'era tanto con Brunetta? Torna sempre con Brunetta a parlare di... Ma io credo che Dario Fo anche lui sia alle prese con un problema di senilità, cioè... Sì, perché non capisco cosa ci sia non solo di politico, ma neanche di comico, di sarcastico... a rimeggiare sulla bassa, cioè non bisogna vincere un premio Nobel per vedere che Brunetta è molto basso. Cioè siamo all'aterosclerosi, secondo lei? Ma sì, in qualsiasi bar le senti queste battute, non c'è bisogno di scomodare quello che è stato una volta anche un discreto giullare nel senso nobile della parola. Cioè dovrebbero prenderlo i suoi, cioè dirgli vabbè, insomma, adesso basta. No, ritirati, è un uomo che non ha capito che nella vita arriva un momento in cui bisogna, non dico farsi da parte, ma insomma... andare in pensione anche lui. Ha fatto una battuta, è un comico, è ma un non Nobel. È una battuta, dai, su Parenzo, ma non fa ridere, cioè un comico di solito fa ridere lei bar... direttore, ma fa ridere milioni di altri, ma è questo, non è che non fa ridere, a parte che a me non fa ridere, ma né di solito nei bar copiano le battute dei che sentono dire grandi comici. Qui siamo all'inverso, Focke ripete una battuta che senti tutti i giorni al bar e quindi non mi sorprende, non mi diverte, l'ho già sentita, voglio dire, non vedo cosa ci sia di geniale. Senta, cosa potrebbe far cadere il governo Letta secondo lei? Ma credo, parlando seriamente, la non approvazione di un minimo di cose che erano contenute nel programma economico del PDL, parliamo dell'IVA e di cose di questo genere. Ma perché Berlusconi per le condanne non farà mai cadere il governo Letta, secondo lei, no? Se ci fossero... Io dico di no perché almeno, insomma, sarebbe un po' pericoloso dal punto di vista elettorale. Cioè? Però, ma nel senso che un conto è far cadere un governo perché non ci dai soldi, un altro è far cadere il governo perché ti hanno condannato, anche se le due cose sono strettamente legate, perché se Berlusconi cade le cose promesse a noi da Berlusconi ovviamente diventano meno realizzabili, quindi in un certo senso si tengono. Sì. Però insomma al momento gli credo quando dice che vuole tenere separate le due cose. Senta, invece un'ultima cosa, ma secondo lei non è stato un po' nominare il ministro dell'integrazione, un ministro che ha delle idee che poi non sono nemmeno compatibili con quelle del governo, perché Grasso, che è il presidente del Senato, non c'entra col governo, però dice che no, lo Ius Soli non c'è. Non è stato un po' un errore di Letta creare questo tipo per mettere in realtà una bandierina, che questa è la mia idea, no? Per mettere la bandiera di un ministro di colore, eccetera, ha creato però un polverone inutile, o sbaglio? Ma sicuramente è un'operazione di marketing politico e di buonismo, insomma, di quello che ha appena detto lei. In generale non credo che sia un problema, perché non credo che sia quello il problema che abbiamo in Italia. No, non passerà mai, non passerà mai cosa? Ma no, assolutamente, non è nel programma elettorale, non è nel... Ma scusa, ma l'hanno fatto anche in Francia? Ma che c'entra? Sarkozy in Francia ha fatto un ministero per l'integrazione. Vabbè, allora non è che tutto quello che fa Sarkozy, ma non è è un'operazione politica straordinaria in cui dai un riconoscimento a una donna cittadina italiana con una sensibilità particolare qual è lei sul tema dell'integrazione. Appunto, un riconoscimento, hai detto tu. Lo fanno in Francia. Ma cosa fanno in Francia? Ma chi se ne frega? Piacere a Sallusti. Sallusti dovrebbe stare in Francia. Ma figure se gli piace il governo Sarkozy, non lo può vedere Sallusti. Sarkozy, ma è di sinistra. Non mi ha sconvolto questa nomina, la ritengo un fatto assolutamente marginale. Chi se ne frega? Sì. Ma solo per come chi se ne frega? È un ministro della chi se ne frega anche, colore, anche secondo me chi se ne frega, tanto non succederà nulla, cioè non proporrà nulla che inciderà. Sarà uno dei ministeri più inutili della storia, ministro dell'integrazione, dai Parenzo, sul ministero ministero dell'integrazione, ma non c'è bisogno. Ma certo, ma il tema dell'immigrazione, ma c'è il ministro dell'interno, no? Ma c'è il ministro dell'interno, il ministro della giustizia, la presidenza del consiglio, non c'è bisogno del ministro che fa dei grandi convegni affrontare il tema dell'immigrazione. Ma come sei ridicolo, sensibilità particolare, ma come parli? Ma lo fanno in tutti i paesi civili, ma perché, compresa la Francia. Ma perché sei già pronto per Rai 3? Me lo vuoi spiegare perché sei già pronto per Rai 3? C'è una sensibilità particolare, bisogna fare un ministro come in Francia, sì. Un ministro che ha la sua sensibilità, ma di cosa parli? Voglio dire, è inutile, è un ministero inutile, voi, lo vogliamo dire o no? Gente cinica, Sallusti, glielo dica lei, è un ministero inutile quello là, inutile! Sì. Non ce ne posso più, o no? È un'ulteriore presentazione, cioè i diritti degli immigrati vanno difesi e protetti dal ministro dell'interno, dal ministro della giustizia, dal ministro degli esteri, non capisco cosa può fare un ministro dell'integrazione, intanto non lo sentiamo più, pubblicità, dei convegni, niente di più, pubblicità, ciao Alessandro, ciao. No, che essere d'accordo con Parenzo è una cosa che fa paura, ma purtroppo sono d'accordo con Parenzo. Ma chi c'è? Ancora Mauro collegato? Mauro! Che fai ancora collegato? No, ma che stai facendo ancora collegato? Niente, non fa un cazzo come il suo solito. Mauro! Sì, ma avvicina la cornetta, metti bene il telefono, non togli la voce. Allora, si sente? Sì. devi allora, parlare nella, poi... devi usare la bocca e parlare vicino al microfono, capito? Allora, decorticato? Dì quel mongolo lì di Ebreo, che se vuole venire domani a vedermi, viene domani a Brescia, io sono a Brescia col megafono. A che stai a fare a Brescia? Che no, fai? A Brescia col megafono lo arresto e lo portano all'ospedale subito. Col megafono a insultare gli stronzi come te, hai capito Parenzo? Col megafono a Brescia, ma prendetelo subito, ma portatelo via, poverino. Conta, te sei un idiota come Dario Fo, che un premio portatelo via. Ma non ho capito, Mauro, che vai... Un premio Nobel che insulta un ex ministro, ma si vergogna. E poi, al di là che era ministro, ma come si fa a insultare uno che ha la sfortuna di nascere piccolo? Io non sono molto alto, ma sufficientemente per prenderti a legnate, hai capito, coglione? Scusa, Mauro, che cosa vai a fare con la bocca vicino al microfono, capito? Che cosa vai a fare domani a Brescia? Telefono, devi metterlo. Cosa vai a fare a Brescia domani? Non c'è mica manifestazione di Silvio. Allora, beh, che c'entra? Tu vai con il megafono lì, che vai a fare? A insultare quei vergognosi PM che hanno il coraggio di condannare uno che non ha commesso il fatto. Cioè, Ruby sì, dice no, lui dice no. Ma ancora non è stato perché, condannato per Ruby, Ascolta, allora, ma chi stabilisce se uno ha commesso il fatto o no? Capito Parenzo che cosa va a fare? Sono le prove che stabiliscono se uno è colpevole, non perché il magistrato si sì, alza con la luna. Parenzo, hai capito cosa va a fare a Brescia domani, Mauro, col megafono? Va a risultare coglioni come Parenzo e gli altri sfigati comunisti di merda che ci sono in giro per l'Italia. Ma domani... tu ti immagini la scena di questo poveretto che arriva col tamanto, ma col megafono? Ci sei solo tu di poveretto. Ma perché ti vuoi rendere ridicolo? Sei già ridicolo, perché? Tu sei un povero ricattato. Perché ti vuoi questo? Dio, guarda, stai superando la soglia del buon gusto, ma l'hai già superata da tempo. Ascolta, e siccome sei veramente un poveretto, perché dare dell'handicappato a una persona è una cosa. Stai superando la soglia del buon gusto, brutto coglione. Stai superando la soglia del buon gusto, hai capito? Hai capito che stai superando la soglia del buon gusto? Stai tranquillo. Hai una voce di merda che fa cagare anche i tuoi. Stai superando la soglia legittima del buon gusto. Tu hai sei un povero cretino perché stai superando la soglia del buon gusto. Testa di cazzo, perché non mi viene a Brescia domani? E te non lo dire infatti. Ma perché non lo... Perché se solo ti vedo mi viene da vomitare, hai capito? Mi viene da vomitare, è solo uno spiegato. Stai tranquillo, Mauro, a te non ci vai. Perché non viene a Brescia? Te non vai domani col megafono. Chi te l'ha detto? Ma non ci vai, dai. Lucia da Roma, un attimo. Lucia da Roma, buonasera. Ciani. Dica. Avete fatto piove qui, voglio aspettare il telefono. Lo so, ha ragione. Ma fa dei grilli a Mauro, non gli arriva. Adesso glielo mandiamo, Lucia. Ah, allora? Dico, questi crediti si lamentano 3.000 euro al mese. Io campo con 900 euro, mio marito sotto cassa integrazione. Me devo comprare il frigorifero, non me lo posso comprare. Sì. Ma di chi si lamentano sti grillini? Che vuole che le dica? 3.000 euro sono tanti. La casa, anziché trovarsela a Montecitorio, se la vanno a trovare a Torvaglianica, che pagano 300 euro al mese. Ma quelli vivono insieme in una stessa stanza, in tre vivono, sti grillini. E capirà, adesso anziché i marocchini abbiamo fatto i grillini, vivranno in 5, in 6, in 7. Allora? Dico, a me ne manca il frigorifero, Berlusconi non me lo può mandare un frigorifero. Chiami il professor Del Debbio, chiami il professor Del Debbio. E non ce l'ho il numero di telefono. Cara Lucia, allora mandi subito una lettera a Berlusconi, mandi una lettera a Berlusconi, noi attraverso il professor Del Debbio, sì, attraverso il professor Del Debbio riusciamo a farle pervenire, a fare pervenire a Berlusconi la sua richiesta. Cosa le serve, signora Lucia? Un frigorifero nuovo, basta. Un frigorifero nuovo, vabbè, piccolo, d'accordo, però. Piccolo. Piccolo, quanto? È piccolo, non quello doppio con i cassetti, perché quello si rompe subito. Uno normale come si usavano negli anni 60. Allora, facciamo una bella letterina. Caro Del Debbio. Sì. Caro Del Debbio. Dica con me. Caro Del Debbio. Caro Del Debbio. Faccia pervenire. Al presidente Berlusconi. Al senatore Berlusconi. Beh, diciamo senatore è meglio, dice lei, no? Mettiamoci certo, pure un'altra. Presidente, senatore. Presidente del presidente, popolo delle un punto, due punti. Della Repubblica. Un punto, due punti. Punto e virgola, ma abbondiamo, no? Abbondiamo. Sì, benissimo. Sì, presidente sì. Berlusconi, questa richiesta. Richiesta. Sono una morta di fame. No, beh. No, beh, che ne so. Fame, no. No, morta di fame, no. Allora, che dobbiamo dire allora? Sono? sono in una situazione difficile, mettiamola un po' drammatica, sennò altrimenti sì, sì, sì, sì. È perché sono i morti di fame si rivolgono a Berlusconi. Beh, ma ha sentito che è successo dal debito, poi le faccio ascoltare. Sono una sono un po' in difficoltà. Sono in difficoltà. Sono in difficoltà economiche, giusto, economiche, facciamo così. Sono in difficoltà economiche, vorrei cambiare il frigo che non funziona più. C'ho 28 anni che ce l'ho. Esatto, non funziona più, non riesco a tenere il cibo nel frigorifero, non perché il cibo non lo metto manco più. Va bene, appunto, perché ho difficoltà, ma calchiamo un po' di cose, così facciamo la drammatica la cosa. Dunque, mi dà una mano per favore a comprare un frigo nuovo? Giusto? No, me lo può pure comprare lui, me lo manda. Vabbè, sì, mi dà una mano. Ma pure le spese di trasporto, dice, di spedizione. Certo. Dunque, punto, due punti, firmato, come si chiama lei? Lucia. Lucia, poi noi attraverso il professor Del Debbio riusciamo a... caro Presidente Berlusconi, va bene così? Facciamo questa lettera qua. Sì, va benissimo. Caro Presidente Berlusconi, se ha ascoltato questa lettera, si metta in moto. D'altra parte, l'altro giorno da Del Debbio parlava, per esempio, una signora che si chiama... com'è che si chiama? Ida. Ida. Lei ora di cosa ha bisogno, signora? Io attualmente ho bisogno di un lavoro, ho bisogno di un aiuto economico perché devo sostenere anche delle spese private per mio marito che purtroppo non può lavorare. Ho allora senta signora, ascolti, siccome noi siamo abbastanza efficaci in questo, io dico Aprilia e dintorni, il quotidiano @mediaset.it. Ed ecco che arriva Berlusconi. E se posso scrivere anch'io al signor Paolo Del Debbio, sarò lieto di donare a questa signora un importo che potrà consentirle di non avere problemi per qualche mese. La ringrazio molto. Grazie, la ringrazio Presidente. Signora Ida, ci sentiamo. Applausi, allora applausi. Grazie Lucia. Ed è con noi il mitico Claudio Coccoluto. Eccoci qui. Che presentazione, grazie. Un onore enorme. Come andiamo Claudio? Senti, scrivi tu a Berlusconi. Di cosa hai bisogno tu, Claudio? Ma guarda, io c'ho... Allora, fammi pensare un attimo. Dovrei cambiare la macchina. Devi cambiare la macchina. Tanti chilometri perché... E poi c'è, sai, quella storia del redditometro che mi mette un'ansia terrificante, quindi ho una macchina da 5 anni, prima la cambiavo ogni anno. Sì, sì, sì. Quindi dunque, adesso... Caro Berlusconi... I chilometri che fa... Caro Berlusconi... Fammi un regalo pure a me, dato che ci siamo, vai in televisione. Penetrati anche nella classe media, non solo... Sì, non solo le signore che chiamano dal debito, anch'io ho bisogno di rinnovare la macchina. Ho 200.000 chilometri all'anno da fare. Dammi una mano. Anche per rimettere in moto l'economia. Poi io sono un dispensatore di ottimismo. Sì. Perché io metto dischi, faccio divertire la gente. Cioè, aiutando me aiuta tantissima gente a cascata. Parenzo, tu conosci Coccoluto? Beh, lo conosco non di persona, ma di fama, sicuro. Ah, di fama. Grazie, così. David. Per me vi conosco. Voi siete di casa per me, perché io vi ascolto da... Cioè, ascolto te, Giuseppe, da sempre. Sì. David, da quando chiaramente... Io lo conosco dalle serate in discoteca. Ma c'è ancora Mauro qui con noi. Mauro, che c'è? Ancora lei deve partire col megafono, deve andare Mauro, da Berlusconi. Mauro, sono le ultime ore di libertà di Mauro prima della carcerazione in ospedale. Che c'è, Mauro? Guarda che quando siamo stati a Roma, sì, se volevi rivedermi, sì, io sono vicino proprio alla telecamera, che saluto. Ma e chi sono se ne frega della telecamera a Roma? Ma vabbè, tu c'eri a Roma al comizio di Berlusconi, d'accordo? Ma adesso da vomitare se lo vedo. Adesso che vai a fare domani a Brescia? Domani a Brescia ci sarà pure Coccoluto, che è un fan di Berlusconi, come tutti sanno. Mauro, che vai a fare a Brescia tu? Hai insultato gli ebrei comuni come parenti. Ma no, basta con questi ebrei. Non si possono insultare gli ebrei in questo modo. Cosa c'entrano gli ebrei? Chiedi un siriano. Civile. Vabbè, ma adesso lasci perdere. Sono argomenti troppo complicati per lei, questi qua. No. Calma. Io vivo di dossier, Rico. Io vivo di dossier, non guardo il calcio. Di dossier. Lei vive di dossier. Dossier. Ma lei deve vivere in un ospedale a vita, non di dossier. Allora, lei deve vivere in un reparto specializzato. Però scusa, Coccoluto, parla tu con Mauro. Io non riesco a commio. Parla tu con Mauro. Ti prego. Signor Mauro. Signor Mauro, se ne faccia una ragione. Faccia la sua manifestazione. Però lasci stare Parenzo, coraggio. Cioè, bersagliato quotidianamente. Io non penso che questa dose di insulti possa migliorare la situazione. Quindi vuole una carica anche lei? Prego? Vuole una carica anche lei? Una carica? No, se la vuole gliela do, ci dico un attimo io. No, beh, guardi, non, come lei preferisce, tanto si sta... No, perché le spiego, io siccome che non ho paura di nessuno, sì. Cioè, se uno mi viene a pizzicare, io, siccome che sono molto impulsivo, ci piego un attimo a mandarlo a fanculo, sa? Sì, d'accordo, Mauro. Lo voglio farlo. Sì, lei non vuole fare. Parte dicendo non ho paura di nessuno, ho paura di tutti. Però poi... No. La saggezza di Coccoluto. Lo posso garantire. Ma allora io voglio capire una cosa. Questo non autorizza a insultare... Ma su ebreo poi, soprattutto, Mauro, su, dai. Allora, tu mi puoi dire di tutto a me. Ma non dirmi mai che sono ebreo, perché io ti spacco la faccia. Ma addirittura, lei va denunciato immediatamente. No. Dimmi, Parenzo, che c'è? Come ci siamo in una democrazia, lo posso dire quello che voglio, capito? Hai capito? Cruciani, mi stanno mandando. Cruciani, dimmi, che c'è? No, voglio dire questo, per spiegare a chi ci ascolta. Il signor Mauro è l'esempio di dell'unico uomo esistente al mondo che vive anziché col cervello con delle scoregge in testa. Allora è un esperimento che la zanzara sta facendo, siccome ha molta aria, tutta quest'aria non riesce ad uscire soltanto, diciamo, per le vie normali come per tutti noi, no? E deve uscire attraverso la bocca il cervello. Vabbè, non c'è, sono come non metterci pure tu, dai. Ascolta, quindi siccome no, per spiegare a chi ci ascolta. Sì. Perché fai parlare un escremento, ma dai, su, Mauro voglio sapere dal mitico Cocco di Gioia, così è conosciuto, sì, Cruciani, su Twitter. Dai, liberiamoci di questa stitica discussione. Allora, perché hai votato, Coccoluto? Per questo mi hai chiamato. Ma no, ma che ti ho chiamato così per divertirci e chiacchierare. Ma per chi hai votato? Ma io, come mi è capitato di dire qualche giorno fa, ho votato per il Movimento 5 Stelle. Pure te. Ma non sono grillino. Vabbè, come me. Ho votato 5 Stelle e non sono grillino. Anzi, mi stanno pure un po' sul cazzo adesso. Però non riesco a far passare questo concetto che si possa votare 5 Stelle non essendolo grillino, cioè stando lì alla finestra a guardare quello che succede. Ma sì, ma uno vota qualcuno, in questo caso Grillo, come ho votato io, e poi se ne frega, non è che appartiene al mondo del grillismo, non è che viene catalogato in questo modo. Io direi, no? Più che se ne frega, cioè la Terza Repubblica di cui tutti cianciano, quella ideale che ho in testa io, è quella dove i cittadini, tanto nominati, muovono i politici come pedini sulla scacchiera, anziché il contrario, cioè che i politici muovono i cittadini sulla scacchiera. Adesso questa me la devi spiegare, però che vuol dire che i cittadini muovono i politici sulla scacchiera? Che il voto più utile in questa circostanza per me era voto al Movimento 5 Stelle. Sì. Anche di Parenzo, hai capito? Anche i DJ pensano, hai capito questa cosa qua? Anche i DJ. Ma noi abbiamo tanto tempo per pensare. Ma uno ha sempre idee, DJ, no? I DJ. No, non ho mai pensato il contrario. Uno ha sempre. Tu forse, io non ho mai pensato. Vabbè, abbiamo la borsa, torniamo subito. Voglio con me Claudio Coccoluto, perché adesso affrontiamo un personaggio particolare che è stato più volte ospite qui, un senatore dissidente dei 5 Stelle. Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per me, quando tutto sembra poesia, la cruda verità. Il disperato e inutile Grillo dice ai suoi: dormite in tre in una stanza, non spendete. Ma dico, lui con quanti soldi vive? Cioè, possibile che uno che è un miliardario come Berlusconi venga a raccontare che uno non può spendere la diaria di 300 euro? Ma non si vergogna questo qui? Mi adorano così, forse un giorno. Però non ha tutti i torti in questo caso il vecchio sgarbone, Parenzo. Cioè, no, scusa, perché deve dire a quei poveracci di vivere in tre in una stessa stanza, a dividere lo stesso bagno, quando lui invece c'ha la villa a Genova? Scusa, Grillo, ma non c'è dubbio, ma è un'ipocrisia assoluta, questo non ci avevo pensato. Cioè, quello c'ha la villa a Genova, vive come un pascià, giustamente, e deve costringere, ma deve costringere i suoi deputati. Mi fa diventare pazzo questa cosa. Riprendete l'audio di quello là che dicono che vivono nella stessa stanza. Stai sbagliando, perché l'ipocrisia non è di Grillo, che fa il, che è il ricco comico, soldi guadagnati onestamente, ma che vive nella sua bellissima villa di Genova. I pirla sono questi qui che hanno seguito Grillo su questa scia, hanno fatto la campagna elettorale dicendo queste cose e ora vivano, vadano fino in fondo, se no tradiscono il mandato degli elettori, per cui gli elettori li hanno mandati in Parlamento, c'è gente come te e anche come l'ottimo Cocoluto, li avete mandati in Parlamento anche per questo, quindi ora loro non si possono lamentare col satrapo, perché il satrapo ha fatto il suo gioco, il satrapo, il mangiafuoco ha fatto il suo gioco, Casaleggio ha fatto il gioco del partito, questi qui sono dei pirla, nel senso milanese. E tu dici adesso, adesso si becchino la stanza in tre e il bagno, certo, in comune. Certo, se no, se io Cocoluto, tu ci vivresti in una stanza in tre col bagno in comune? Beh, se fosse per mia scelta sì, se fosse imposto no, però io volevo dire a Parenzo che anche se il suo discorso è analogico, io non ho votato sulla diaria il Movimento 5 Stelle, e della diaria me ne frega veramente poco, come me ne frega dell'IMU, della proposta del PDL. Cioè, secondo me sono argomenti, ripeto, folcloristici. Sì, d'accordo, però questi qua, ma ti pare normale che questi qua vivono in tre in una stessa stanza con bagno in comune? Dai, deputati della Repubblica. Sto dicendo di no. Infatti non mi pare normale, ma non mi sembra neanche essenziale questa discussione. No, vabbè. Probabilmente Grillo ne fa propaganda per motivi mediatici suoi, che però sfuggono alla comprensione pratica del problema, perché secondo me a questo punto della diaria del parlamentare 5 Stelle a me me ne frega zero. No, ma infatti il problema è quello, io l'ho detto anche più volte, perché questi qua si accartocciano, si incartano su queste cazzate, si incatenassero in Parlamento per la legge per il finanziamento pubblico dei partiti. Oggi Grillo ha detto una cosa giusta, il Parlamento e il governo in particolare finora sulla restituzione del finanziamento pubblico dei partiti, sulla cancellazione, hanno fatto solo chiacchiere, non hanno fatto nulla. Ora benissimo, incatenatevi grillini deputati, non bisticciate, non litigate, non sparate minchiate sulla questione della diaria, la gente se ne frega se guadagnate 3.000, 3.500. Ma la gente se ne fotte, dai, sul punto non è quello. Integrante di quel programma, questa propaganda assurda per cui il deputato deve essere un vabbè fammi fraccione. Sentire Stefano da Firenze, dai. Stefano da Firenze, pronto? Sì, dica. Ciao Giuseppe, sono Stefano da Firenze. Che c'è? Allora, premesso che io non vivo senza la zanzara, altro che quello del castello di Carisio, io sono drogato. Bene, meglio così, voi due. Meglio così. Però allora volevo darvi una possibilità, sì, perché ho delle persone che vi odiano, e invece io faccio propaganda, che dicono che ci sono alcune figure, alcuni ascoltatori che sono personaggi creati da voi, quelli che chiamate l'ambulanza, che stanano i veri fatti che ci sono in Italia. Lo sa che non ho capito, cioè ci sono ascoltatori finti, non ho capito. Allora, la tesi dei vostri nemici sarebbe questa. Ma quali nemici poi? Ce l'è la tesi dei nostri nemici, ma quali? Suoi? Sì. Gente che conosce lei, vabbè, allora... Sì, gente contro di voi, io sono con voi. Vabbè, gente contro di noi, che cosa dicono questi qua? Questi fantomati? Sì. Hanno inventato 3 o 4 personaggi che non sono veri, che fanno finta di essere pazzi, e poi con questi personaggi in realtà stanano i veri pazzi che ci sono a giro. Ma lo sai che continuo a non capire nulla io? Ah, vabbè. Stefano, non ho capito, ma quali sarebbero i finti? Non ho capito, chi sarebbe finto? Presuppongono che ci sono dei personaggi nella vostra trasmissione che sono vostri collaboratori, che fanno finta di essere pazzi. Se non si capisce nemmeno così, non si è capito. I nostri collaboratori che fanno finta di essere pazzi, non lo so. Sì, ascoltatori, vabbè, d'accordo. Inventate 2 o 3 figure. Sì, ho capito. Vabbè, no, ma guardi, non abbiamo tempo di inventarci nulla, perché quel deficiente rimbambito, innanzitutto, è uscito. Dove sei andato, Parenzo? No, voglio dire, non abbiamo. Ma dove sei andato? Dove sei andato che ti sentivo parlare con qualcuno? Avevo un problema di alitosi, sono andato a comprarmi delle caramelle per la gola. Allora, ma scusa, non puoi stare fermo che non si sente una mazza ogni volta? No, perché la trasmissione è di una sente una mazza, non si sentiva una mazza prima, perché ti sposti continuamente? Aspetta che ho un ospite, aspetta che ce l'ho qua davanti, aspetta un secondo. Buonasera, posso fare una domanda per la Zanzara, Radio 24? No, io veramente me ne andrei. Dove va? Al caffè. Ah, grazie, quindi voleva rispondere a questa domanda allora. Berlusconi, no? Il ritorno, questo Berlusconi che regala addirittura soldi in diretta televisiva, cosa pensa lei? non ne penso niente, non so niente. Ecco, allora sento che la gente comunque è contraria a questa roba. Ma non è contraria, ha detto che non la sa niente. Ma che dici? No, no, no, il mio sondaggio che ho fatto poco fa ha detto che è contraria a questa idea di Berlusconi che regala i soldi. Sì, vabbè. Inchieste sul territorio, mio nonno Riccardo d'Arezzo. Riccardo, sì. Poli conosco, che c'è da dire? Sì. Pronto? Dica Riccardo, dica. Allora, volevo fare una domanda a Parenzo. Sì, perché sì. Io lo conosco, sì, l'ho cominciato a conoscere da quando seguo la Zanzara, io non so nemmeno il lavoro fa, no? Come che lavoro fa? Cioè... Non lo so, io non lo... Vabbè, allora... Io gli volevo chiedere, per tutte le minchiate che dice, sì. Io volevo chiedere se... Quando la sua madre lo ha partorito dal ritto, lui uscendo è scivolato la levatrice, ha battuto la testa e ci è rimasto postumi. Parezzo? Pronto? Allora, intanto in generale il buon gusto vuole che la mamma non si tiri mai in ballo. Ma la sua povera mamma, ha detto mentre l'ha partorita si è battuto la testa lei. Questo è il buon gusto. Però non le si può chiedere a una persona come lei, non le si può chiedere il buon gusto perché non ce l'ha. Quindi è giustificato per questo. Anche lei non c'è il buon gusto, perché nel senso di mancante di buon gusto, quindi poverino, non lei, il buon gusto nemmeno lei, perché lo sa cosa fa lei? Fa il proletario col portafoglio gonfio. Ma io non faccio il proletario di niente, ma è comunque lei l'altra sera, quando nei momenti di crisi era a Gerusalemme a mangiare il pesce, me ne ricordo una trasmissione. E come no, me lo ricordo pure io perfettamente. Appunto, non lo dica, se fa tanto immoralista... Dia l'esempio, no? Dice, almeno stia zitto, cioè non nessuno gli invita la sua posizione economica. Nessuno gli invita a mangiare economia, però non lo deve dire, sono a mangiare il pesce a Gerusalemme tranquillo mentre la gente muore di fame. E poi ce la conto per il signor Cruciani mi chiedeva dove sono, siccome non mi nascondo era mangiare, ma è un reato. No, non è un reato, io non ce l'ho mica con chi ce l'ha fatta nella vita, lei ce l'ha con chi ce l'ha fatta nella vita. Ma io non ce l'ho per nulla con chi ce l'ha fatta, ce l'ho con gente demente. No, io sono contento lei, Parezzo, che vada a godersi la vita, perché uno che ce l'ha fatta nella vita come lei, che ha raggiunto la posizione. Non deve interessare minimamente, se uno mi chiede cosa faccio, dico sto mangiando il pesce a Gerusalemme. È un reato mangiare il pesce a Gerusalemme? Concoluto, ma ti insultano, no, insultano così anche te? No, mi insultano, dici? Ogni tanto insultano così anche te? No, devo dire che ai livelli di Parenzo è difficile. È difficile, eh. Fortunatamente per me, ma anche, però, anche a livello mio, una bella dose di insulti me la becco pure io su Twitter, cioè, ma non neanche tanti, dai, devo, secondo me fanno parte del... Ma Mentana che se n'è andato, Mentana che se n'è andato da Twitter, ne vogliamo parlare? Parenzo gli dà la solidarietà, no, il solito lecchino di Parenzo gli ha dato la solidarietà a Mentana. No, ha fatto... non mi piace, no, perché abbandonare, non dire stupidaggini. Che dici, perché non ti piace? Non mi piace andare via, perché io me la combatto, ognuno che mi insulta sto lì a baccagliarci finché non si trova nel confronto un accordo, anche perché l'insulto gratuito di solito è di qualcuno che si vuole far notare. Ma scusa Parenzo, hai scritto, ha fatto bene Mentana a togliersi da qui, l'insulto in rete è quanto di più meschino e codardo esiste al mondo, hai detto. Scusami. Che ha fatto bene, abbi pazienza. Allora ho detto, se mi fai dire una cosa in 30 secondi, intanto ho fatto le chiedo come di nessuno. Enrico Mentana, sì. ha fatto una... Io non ho detto che mi sto togliendo, ci sto pensando di togliermi da Twitter. Capisco, no, e mi diverto. No, tu, Mentana. Ma anch'io ci sto pensando a togliermi da Twitter, perché il ragionamento di Mentana non è sbagliato. Cioè, siccome sì. sulla rete, la rete è qualcosa di codardo, perché chi ti insulta, come alla radio per telefono, no? Perché è facile insultarti al telefono dall'altra parte. Ma che vuol dire? Ma chi se ne frega di quelli che ti insultano? Ma chi se ne frega? No, ma io dico, siccome... No, però, in un certo senso ha ragione, scusate, il signore che voleva spaccare la faccia, doveva dare le sue generalità e poi diceva tutto quello che... Ma anche se non dava le generalità, Mauro, è sempre qui, Mauro, che vuoi, spaccare la faccia a Parenzo o scherzavi? No, io gliela spacco davvero quel pezzo di merda lì. Ma dai, Mauro! Davvero. Ma perché? Ma lui come si permette di insultare chi non la pensa come lui? Ma tu sono hai tutti una... i coglioni quelli. Ma quelli che hanno votato Berlusconi sono coglioni? Ma io ti faccio. Sono coglioni quelli che hanno votato quel Gargamella del cavolo di Bassari. Ma io ti faccio arrestare, Mauro. Va bene, io chiedo ufficialmente alla radio sì. di consegnare alla questura di Milano sì. il numero di questo signore. Ma forse ti chiede la questura di Milano, che sono tutti comunisti come te, sfigato. Guarda che ti faccio arrestare, Mauro, ti faccio arrestare dalla questura di Milano. Ascolta. Ti faccio allora, denunciare e arrestare se continui a parlare di ebrei e di altre cose. Milano. Allora, caro Cruciani, tu devi sapere che io faccio parte di quelle persone che dal 2005 a 4.000 euro al mese ci sono i tutti a 0 euro. E beh, ma allora che c'entra? A quello bravo mi mando di Monti. Hai capito? Vabbè, ma sei. Sei al delirio. Sei al delirio. Facevo il custode guardiano, un vigilante, diciamo. Poi perché è stato licenziato? È fallito l'azienda? Il condominio ha chiuso, sì. Diciamo, i battenti, quindi automaticamente sono rimasto senza lavoro. È vero che ora si fa, vive con 150 euro settimanali? Sì. E le guadagna in nero, vero? In nero e non sono totali 150, in quanto devo comunque fare 40 km andare e 40 km a venire, quindi sono intorno a 120. Il dramma portato sulla grande televisione nazionale, a questo punto si inserisce Berlusconi. Io segnalerò la loro posizione. D'accordo. Al presidente della regione Campania e al nostro coordinatore regionale. Oltre a questo, se lei me lo consente, data la coincidenza della mia presenza qui e della loro presenza in studio, io mi permetterò di inviare un supporto concreto che li toglierà dalle angosce per alcuni. Siamo qui con il mitologico senatore Marino Mastrangeli. Buonasera. Buonasera a tutti dal senatore due terzi del Movimento 5 Stelle. Ma come senatore due terzi? Scusi. Senatore due terzi perché i due terzi degli iscritti e sì. I due terzi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle non hanno mai chiesto la mia esclusione dal gruppo parlamentare. Vabbè, ormai quindi io continuerò a rappresentare la stragrande maggioranza degli iscritti al Movimento 5 Stelle. Però Mastra, se ne faccia una ragione, Coccoluto, glielo dica pure lei, ormai è espulso, punto e basta, no? Cruciani, il senatore di Cassino, siamo pure a pochi chilometri, abitiamo. Vi conoscete, Mastrangeli, conosce Coccoluto? Conosco suo fratello. Sì, lo conosco per, diciamo, non di persona, insomma. Non di persona, Coccoluto, di qualcosa a Mastrangeli, basta con questa storia, ormai è fuori. Te lo dico da paesano, veramente basta questa storia. Fai il tuo percorso parlamentare, fregatene, tanto ormai sei eletto, io non ci starei a richiamare. Non posso intervenire nel talk show, comunque la ma che c'è il talk show con Coccoluto, non puoi intervenire? Io, te ne vada Crimi. Se ne vada. Lui invece, ragazzi, non avete capito niente, non avete capito nulla, bisogna sostenere la battaglia di Mastrangeli. Mastrangeli sarà il nostro cavallo di Troia dentro il movimento, perché ne sta evidenziando tutte le contraddizioni. Quindi ti dico di più, sì. La Zanzara ti dà il patrocinio per continuare questa battaglia di democrazia, di libertà, di diritto. Tu sei tutti noi, tutti siamo Mastrangeli, siamo tutti Mastrangeli, siamo tutti con te, libertà, diritto, Cambogia libera, Mastrangeli continua a combattere. Ma questa è Pannella, scusa, che dici? Continua ad andare da Barbara D'Urso, dice Coccoluto. Sì, ma intanto vorrei fare una battuta che oggi ho inventato un nuovo nomignolo per Vito Crimi. Sì, ho visto. Il perdivoti, lo sapete perché è il perdivoti? Ma ormai sei diventato un battutista tu, Mastrangeli. Lo sapete perché è il perdivoti? Che lo è volete successo? Sapere? No, dimmi. Allora, il sottoscritto a sì. Cassino ha preso il 26% al Senato, portando sì. anzi 25%, portando la media della provincia sopra di due punti, dal 23 al 25%. Vabbè. Invece Vito Crimi sì. alle elezioni è riuscito a portare già la bassa percentuale della Lombardia dal 17% l'ha portata al 14%. Io ho preso il doppio dei voti di lui, però non si sa perché lui è capogruppo. Io mi ero candidato capogruppo, ma ci sono anche delle testimonianze, ma pure sgambettato per riuscire. Scusa, ad essere Marino, lui capogruppo. Marino, ecco perché è successo tutto. Marino, spiegami una cosa, ma adesso che sei al gruppo misto, però dimmi la verità. tu lo stipendio da parlamentare lo pigli tutto, Coccoluto, farebbe anche bene a prenderselo tutto sto stipendio, sbaglio, Coccoluto? Aspetta, io, Marino, aspetta, vabbè, aspetta. Luciani, sono io che ho lanciato questa questione degli stipendi la settimana scorsa a pomeriggio 5, sono stato il primo a far vedere i cedolini dei miei emolumenti e ho dichiarato che io farò come ho sempre fatto, cioè faccio tutto quello che faranno i miei colleghi. Cioè in che senso? Ma posso chiedere a Mastrangeli quello che faranno i parlamentari del Movimento 5 Stelle, però anche io, perché io continuo a fare tutto quello che fanno loro. Coccoluto, allora che vuoi chiedere a Mastrangeli? No, mi chiedevo perché questa passione per pomeriggio 5? Esatto, perché sei così appassionato della D'Urso, Mastrangeli? Io semplicemente sono una persona educata, se qualcuno mi invita vado, io accetto l'invito, sempre che non sia un mafioso, logico. Scusa, ci puoi dire definitivamente chi ha dato la puttana alla D'Urso? E dai, su, indagate, fate il vostro lavoro di giornalista. Ma che indaghiamo? Te l'ha detto in faccia, sei andato da quella puttana della D'Urso, chi è stato? No, l'ha urlato addirittura, questa persona l'ha urlato. Vabbè. Nel corridoio del Senato. E allora dillo, chi è stato? Vabbè, non lo vuoi dire. Indagate nel senso. Vabbè, ciao Marino, Claudio, persone. grazie a Claudio Coccoluto per essere stato con noi. Giuseppe, è stato un onore, ciao Davide, grazie. Ciao. A domani 18:30, anzi lunedì. Ma risulta i coglioni come Parenzo e gli altri sfigati comunisti di merda che ci sono in giro per l'Italia, capito? Signor Mauro, se ne faccia una ragione, faccia la sua manifestazione, però lasci stare Parenzo, coraggio. È bersagliato quotidianamente, io non penso che questa dose di insulti possa migliorare la situazione. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.